Letture di Radio 24. Nel romanzo Maigret e il caso Naour, che inaugura la collana che Il Sole 24 Ore dedica ai gialli di Georges Simenon, il celebre commissario viene svegliato da una telefonata del suo miglior amico, il dottor Pardon, che gli dice che presso di lui si è presentato uno sconosciuto assieme ad una donna ferita da un colpo di pistola. Dopo averla curata, i due spariscono. Quella notte stessa Maigret si reca al commissariato e discute del caso con il suo collega, l'ispettore Lucas. Mentre con aria imbronciata raccontava la vicenda, Maigret ne scopriva i punti deboli. Il colpo non è stato sparato in un albergo e nemmeno per strada. Quindi deve essere successo in un appartamento privato o in una villa. Secondo lei sono marito e moglie? Direi di no, anche se non saprei spiegare perché. Se avessero chiamato il loro medico di fiducia, supponendo che ne abbiano uno, questi avrebbe dovuto inviare un rapporto alla polizia. Maigret si arrovellava soprattutto sul fatto che avessero scelto Pardon, un anonimo medico di quartiere. Avevano forse pescato il nome a caso dall'elenco telefonico? La donna non risulta essere stata ricoverata né in un ospedale né in una clinica. Pardon si è offerto di prestarle un accappatoio della moglie perché la sottoveste e l'abito erano inzuppati di sangue, ma lei ha preferito rimetterseli così. Perché? Luca fece per aprir bocca, ma il commissario aveva già pronta la risposta. Perché quei due non avevano intenzione di filarsela. Non sarà magari un ragionamento brillante, ma regge. Buona parte delle strade è pressoché impraticabile, a maggior ragione con a bordo una persona ferita. Ora che ci penso, chiamami Brouquet, a Orly. Brouquet, un alsaziano dall'accento marcato, era il commissario del posto di polizia dell'aeroporto. Quella notte non era in servizio. E fu il suo vice a rispondere. «Vice commissario Marathieu». «Parla Maigret», borbottò il capo della omicidi, già irritato dal tono presuntuoso del suo interlocutore. «Cosa posso fare per lei, signor commissario?» «Per il momento non lo so nemmeno io». «Quanti voli per l'estero sono partiti dalle due, anzi, dalle 2:30 di stamattina in poi?» «Solo due, uno per Amsterdam e un altro per l'India, con scalo a Quantrain. 40 minuti fa hanno sospeso i decolli per via del ghiaccio sulle piste». «Voi siete lontani dal parcheggio?» «Neanche tanto, ma con tutto questo ghiaccio persino camminare è un'impresa. Mi faccia lo stesso la cortesia di andare a controllare se c'è un Alfa Romeo rossa. Ha il numero di targa?» «No, ma dubito che a quest'ora ci siano molte Alfa Romeo di quel colore nel parcheggio. Nel caso la trovasse, chieda agli ispettori del controllo passaporti se hanno visto passare una coppia rispondente a questa descrizione». E ripeté quanto già detto a Luca e agli altri due. «Mi richiami appena può al Quai des Orfèvres». Poi, girandosi verso il buon Luca, si strinse nelle spalle e disse «Non si sa mai». Era un'inchiesta strana e sembrava che Maigret non la prendesse tanto sul serio e che la affrontasse al modo in cui si cerca di risolvere un cruciverba. «Marathieu sarà furibondo», osservò Luca. «Lui che è sempre stato al lucido come un damerino e che si dà arie da gran capo, mandarlo a impantanarsi nella neve e a far l'equilibrista sul ghiaccio». Passarono più di 20 minuti. Prima che il telefono si decidesse a squillare. «Parla il vice commissario Marathieu», disse a voce alta Maigret, facendogli il verso. E furono esattamente le prime parole che udì. «Allora? C'è un Alfa Romeo rossa con una targa della periferia di Parigi nel parcheggio. È chiusa a chiave?» «Sì, una coppia rispondente ai connotati ha preso il volo delle 3:10 per Amsterdam. Ha i nomi?» «L'ispettore che ha controllato i passaporti non se li ricorda. Sa solo che l'uomo aveva un passaporto colombiano e la donna olandese. Entrambi con svariati timbri e visti. A che ora atterreranno ad Amsterdam? Se il volo non ha accumulato ritardo e la pista è praticabile, alle 4:17. Erano le 4:22. Con ogni probabilità i due erano al controllo documenti e stavano passando la dogana. In ogni caso, e soprattutto a quel punto dell'inchiesta, Maigret non poteva permettersi di rivolgersi direttamente alla polizia dell'aeroporto olandese. «Allora, capo, cosa faccio?» «Niente, aspetta che ti diano il cambio. Per quanto mi riguarda, me ne vado a dormire. Buonanotte, ragazzi. Anzi, se uno di voi fosse tanto gentile da accompagnarmi a casa». Mezz'ora dopo, dormiva già come un sasso accanto alla moglie. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giorgio Simenon, Maigret e il caso Naur. 170 pagine, 6,90 euro, in vendita da oggi in abbinamento con Il Sole 24 Ore.